morso e fuga. Mi sporco di fango, catrame di ruggine. L'istinto mi spinge a un sole che mi asciuga. A un metro dalla grandine. Coccolato qualche volta da qualche signora che altro animale non ha. Chiusa l'ennesima porta, c'è la strada e a lei che dietro chiamerà. E fra un po' si torna in calore, lo sai che per qualcuno è comodo. C'è una cuccia, un osso e un padrone per noi. Identità, figlio d'un cane, figlio d'un cane, figlio di 5 minuti. Identità, figlio d'un cane, figlio d'un cane, figlio d'un equivoco. Identità, figlio d'un cane, figlio d'un cane, figlio d'un blessi rubati. Identità, figlio d'un cane, figlio d'un preservativo. Sassi, scarponi e bestemmie che tirano. Ed ululare un sollievo è un piacere.